Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. La cortellata gli è andata bella precisa qua. Si sono scannati per eredità. C'è stata un'aspra diatriba legale per la divisione. No, no, hai detto un'aspra diatriba legale. Chi? Io sono stato chiaro, non assumo laureati. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Smetto quando voglio, quando i ricercatori diventano ricercati, trasformandosi in cervelli in fuga nel vero senso del termine. Un film che con molta ironia ha riesumato il dibattito sulle scarsissime soddisfazioni che ricevono i nostri scienziati in Italia. La scena del trailer, che avete appena ascoltato, sottolinea la vergognosa situazione di un paese dove studiare è una colpa, non un valore aggiunto, nel mondo del lavoro. La frase della settimana è copyright dell'ex ministro degli esteri Emma Bonino: non ci sono cervelli in fuga ma cervelli in movimento, il problema è se ne attraiamo altri. Sempre per la Bonino, bisogna superare la paura dei cervelli in fuga e aiutare i nostri talenti all'estero a fare esperienza e poi a tornare in Italia. 5.000 laureati lasciano la penisola ogni anno con un contratto di lavoro già firmato. Sono ingegneri, economisti, esperti di lingue e letterature straniere, ma anche medici. Il 7% degli universitari che trovano impiego a un anno dal titolo lavora fuori dal paese. Stiamo perdendo la classe dirigente del futuro. La loro attività creerà infatti ricchezza in altri paesi. E sprechiamo pure i 175 milioni di euro spesi dalla pubblica istruzione per formarli. A denunciarlo la recente inchiesta del settimanale L'Espresso, che rivela su Eures, portale dell'Unione Europea per gli annunci di lavoro, sono presenti i curricula di oltre 190.000 connazionali pronti alla fuga. Per Giovanni Peri, ricercatore di economia del lavoro a Berkeley, l'Italia rischia di trovarsi con meno cervelli, meno imprese, meno ricerca e meno produttività. A noi non resta che ricordare l'allarmante contabilità statistica: il 42,4% dei giovani italiani è senza lavoro, quasi 700.000 in termini assoluti, picchia al sud e tra le donne. In 6 anni sono andati persi 1.800.000 posti tra gli under 35, cifre allucinanti per il premier Matteo Renzi. Non possiamo sopportare a lungo una tendenza crescente alla disoccupazione, soprattutto giovanile, aggiunge il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e l'Europa mercoledì ci ha chiesto riforme per rafforzare crescita e occupazione. Intanto chi ama correre veloce cerca ambienti dinamici, se non ha voglia di aspettare preferisce cogliere occasioni al volo, magari dall'altra parte dell'Atlantico. Oggi festa della donna, auguri di cuore a tutte le nostre ascoltatrici, proprio una donna è protagonista a Giovani Talenti. Forse il mio curriculum mi ha aiutato, sicuro, però qui in America se lo riconoscono. I recruiters ti chiamano, tanti colloqui che si concretizzano subito in offerte di lavoro. E alla fine a te sta proprio scegliere. Caterina Mariani, 26 anni, è Interest Rates Analyst presso la banca d'affari JP Morgan Chase a New York. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. News ampiamente dedicate al brain drain nel mondo della ricerca, ricerca che risulta perdente in Italia. Stando ai risultati del primo concorso per borse di studio di consolidamento della Commissione Europea, fra i 312 cervelli individuati dal Consiglio Comunitario, che si divideranno 575 milioni, ci sono ben 46 italiani. Siamo il secondo paese dopo la Germania per numero di scienziati premiati. Peccato però che oltre la metà di loro lavori all'estero, 26. L'Italia non compare neppure fra i primi 3 paesi che ospitano i ricercatori premiati, nell'ordine Gran Bretagna, Germania e Francia. Il bel paese risulta in coda. E non finisce qui. Nella classifica dei 400 scienziati più influenti al mondo dello European Journal of Clinical Investigation c'è spazio per 6 connazionali al lavoro nel nostro paese, ma spostandosi in Ohio o a San Francisco la lista si allunga con l'aggiunta di 2 talenti in fuga, Carlo Croce e Napoleone Ferrara. L'esodo appare monodirezionale, non c'è traccia di professori stranieri che hanno deciso di trasferire cattedra e residenza nella penisola. Per Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, uno dei 6 scienziati in Italia, siamo degli eccellenti donatori di cervelli, ma questo è normale. Quello che non è normale è che il paese non sia attrattivo per i talenti stranieri. Il vero oro è l'oro grigio. In tutto il mondo c'è una corsa ad accaparrarsi i migliori cervelli. Noi restiamo indietro, ha detto Mantovani al Sole 24 Ore. SOS per la ricerca italiana. Con pochi ricercatori e poco retribuiti, è un malato terminale che rischia di non avere la forza per essere competitiva all'interno del programma europeo Horizon 2020. Occorre un cambiamento immediato. L'appello è giunto dai rappresentanti di enti di ricerca, università e istituzioni riunitisi a Roma. L'Italia si presenta a Horizon 2020 con pochi ricercatori che ricevono stipendi tra i più bassi in Europa. Questo ci mette in difficoltà, ha detto il presidente del CNR Nicolais. Misure urgenti sono necessarie anche secondo Maria Grazia Roncarolo, presidente dell'associazione Gruppo 2003. La ricerca italiana è un malato terminale che va curato con urgenza. In Italia, ha rilevato la Roncarolo, stiamo perdendo un'intera generazione di giovani. E secondo Elisabetta Deiana, ricercatrice IFOM, il paese perde due volte. Formiamo giovani spendendo 270.000 euro dalla scuola primaria alla fine del percorso di studi, che poi lasciano l'Italia per poter lavorare più velocemente senza essere oppressi dalla burocrazia. Anche quando tornano, i nostri ricercatori vengono mal ripagati. È successo a tre nostri cervelli di rientro che hanno scoperto il primo batterio passato dall'uomo alle piante. Il gruppo è coordinato dal microbiologo Andrea Campisano. Gli autori della scoperta sono tornati in Italia pochi anni fa con la legge per il rientro dei cervelli, ma si sono presto scontrati con la crisi e sono ancora precari. Uno di loro addirittura è senza lavoro da 5 mesi. Ci sono anche buone notizie. La Commissione europea ha avviato una campagna per aiutare i ricercatori a ottenere informazioni e trovare un posto di lavoro tramite il portale Euraccess, info su euraccess.org. Ed è stato lanciato Trideo, bando per la ricerca scientifica da 2 milioni di euro, promotori Fondazione Cariplo e AIRC. Il bando si rivolge a scienziati under 40. Ed è una buona notizia anche quella che arriva da Napoli, dove il CNR ha premiato due ricercatrici under 40. La prima, Margherita Perillo, partirà per l'Europa. Non so se tornerò o resterò fuori, dice. Valeria Tarallo, invece, è rientrata dopo 3 anni negli Stati Uniti. Si svolgeranno il 13 marzo a Milano gli Stati Generali dell'Ecosistema Startup Italiano, a organizzarli Italia Startup. L'appuntamento illustrerà le più importanti novità normative relative alle opportunità disponibili per le startup in termini di agevolazioni fiscali e fondi. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta negli Stati Uniti. New York resta una delle città dove tutto è possibile, a prezzo di un duro lavoro e anche di una competizione forse spietata, ma la velocità di crescita professionale è veramente impressionante. Ascoltare per credere. Nome: Caterina. Cognome: Mariani. Età: 26 anni. Città di origine: Roma. Studi: laurea matematica in le applicazioni. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2012. Per andare dove? New York. Perché? Per frequentare un master in Mathematics of Finance alla Columbia University. Quale lavoro svolge attualmente? Analista finanziario dei tassi di interesse. Dove? New York, Manhattan. Tornerai? Sì, ma senza compromessi. La cosa che più mi ha colpito negli Stati Uniti e che a mio avviso caratterizza la mentalità americana, compresa l'idea stessa di università, è che ciò che è importante qui è il pragmatismo, così ci ha scritto Caterina da New York, metropoli simbolo del pragmatismo anglosassone. Spiegaci allora in modo altrettanto pragmatico come si concretizza questo pragmatismo, cosa conta realmente alla fine, qual è il valore assoluto. Durante i miei studi italiani c'è sempre stato un focus principalmente sull'aspetto teorico, sui concetti e molte volte anche sulla filosofia dei concetti, se vogliamo. Tutto ciò per carità è buono come base, ma qui in America questo non basta. Devi sapere infatti usare questa base per arrivare a un obiettivo concreto. E se ti specializzi in una disciplina scientifica con indirizzo applicativo come è successo a me, non può mancare questa applicazione. Andiamo ora alla tua storia. Con la passione per la matematica e anche l'iscrizione al liceo scientifico, all'università scegli una facoltà meno battuta rispetto a quelle più note, che è matematica. Perché? Perché, come si dice, il primo amore non si scorda mai. Infatti, sin da piccola il mondo dei numeri mi ha sempre affascinato. Quindi la scelta è stata abbastanza facile e sincera, senza neanche chiedermi quali sarebbero state poi le possibilità di lavoro dopo, una volta laureata. Nel 2006 inizia il tuo percorso accademico, ti laurei con la triennale nel 2009, poi scegli come specialistica matematica applicata, indirizzo finanza. C'è però una lacuna che noti nel sistema di formazione italiano, lo scollamento molto forte tra teoria e applicazione concreta di questa teoria. Non è però paradossale in un indirizzo che recita matematica applicata? Sì, lo è. La cosa che mi rattrista è che in un'università di livello e profondità come la nostra, riconosciuto a livello internazionale e anche mondiale, manchi un dialogo diretto e costruttivo con il mondo del lavoro, con questa applicazione, con la realtà quotidiana e con i fatti. Ti sei pentita di non aver studiato magari direttamente negli Stati Uniti? No, questo no, perché il livello di base dell'università italiana, come riconosciuto a livello mondiale, è ottimo. E nella primavera 2012 ti laurea a pieni voti. Che fare? La laurea non ti dà alcuna abilitazione per uno sbocco professionale e te ne rendi conto subito, rifletti a posteriori. Entri nel mercato del lavoro in un'Italia in piena crisi, allora ci racconti quale paese hai trovato? Una volta laureata, la mia permanenza in Italia, subito dopo la laurea, non è durata molto. Infatti in quei pochi mesi ho sostenuto qualche colloquio, mi facevano sentire quasi privilegiata, perché sostenere un colloquio di lavoro da neolaureata poteva apparire appunto un privilegio. Parliamo proprio delle opportunità professionali, di salario e prospettive che hai visto. Andiamo sul concreto, sul pragmatico. Molte volte durante il colloquio non mi sembrava di sentire dall'altra parte un reale interesse ragazze, quindi offerte, non c'erano vere e proprie prospettive, potevo soltanto suscitare curiosità per un tipo di... Cioè non ti chiamavano sostanzialmente... curriculum, esatto. Per una posizione concreta, ma per capire perché avevi scelto matematica. Esatto, perché... È paradossale. Perché ho fatto matematica, c'era sempre. Quindi non c'erano delle, non vedevo delle proprie vere opportunità concrete o job vacation da coprire. La tua storia, come molte di quelle che raccontiamo, è segnata da sorprese o appuntamenti col destino. Cosa accade nel giorno in cui a San Donato Milanese, appena uscita dalla stazione della metro, ti dirigi verso il palazzo dell'ENI per un colloquio? Quale messaggio trovi nell'email che arriva da New York? Trovo lì prima email, la famigerata email della Columbia University, che mi conferma che sono stata ammessa al Master in Mathematics of Finance. E perché avevi inviato questa application? Perché ho fatto una dettagliata analisi delle università più accreditate nel mondo della finanza che potevano offrire un percorso formativo specifico nel mio settore. E la Columbia offriva questo Master annuale dai contenuti molto interessanti. Soprattutto in quanti siete stati ammessi e su quante candidature? Siamo stati ammessi in 60 su un totale di 1181 domande. Alla Columbia sono stati 12 mesi di studio molto intensi, ma al tempo stesso gratificanti, ricordi. Quale modello di studio e formazione hai trovato sull'altra sponda dell'Atlantico e quanto è stata dura? I ritmi in cui l'università americana ti sottopone sono molto sostenuti. Hai homework, compiti da consegnare tutte le settimane, lezioni da seguire, progetti ed esami da preparare per ogni materia. Un totale di 10 corsi in 2 semestri, nei quali all'esame è soltanto one shot, una possibilità, non puoi permetterti di ripetere l'esame all'appello seguente. Quindi o promosso o bocciato. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Caterina Mariani, 26enne Interest Rates Analyst per JP Morgan a New York. Caterina si lancia presto nella scommessa di una formazione negli Stati Uniti con un master alla Columbia University. Le opportunità di impiego arrivate subito dopo in un mercato del lavoro dinamico ed efficiente come quello americano servono da lezione a quello molto più asfittico del nostro paese. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Hai visto un mondo accademico che non è chiuso in se stesso? Ce lo spieghi concretamente? Qui in America c'è un'osmosi tra il mondo accademico e quello del lavoro. C'è un legame indissolubile. Fin dal primo giorno ci sono incontri con industrie, aziende, banche, moltissime entità che cercano persone, cercano teste da prendere, da far proprio e da sviluppare. Ti senti quindi indispensabile, come giusto che sia. Mi dispiace ammetterlo, ma io una volta laureata in Italia e in possesso della mia laurea specialistica non mi sono sentita indispensabile. E anche a New York ho concluso il master e arriva il momento del e adesso? Però nella grande mela è diverso, non si respira quella brutta aria che permea l'atmosfera del mondo del lavoro italiano. Qui il problema è scegliere tra le offerte di lavoro, ma ti rendi conto, sbotti a un certo punto della tua email. Il mondo alla rovescia, Caterina, com'è possibile? È proprio così. Forse il mio curriculum mi ha aiutato, sicuro, però qui in America te lo riconoscono. I recruiters ti chiamano, tanti colloqui che si concretizzano subito in offerte di lavoro. E alla fine a te sta proprio scegliere. In estrema sintesi, ci racconti la procedura di selezione con la banca di investimenti JP Morgan? Sono stata chiamata per un colloquio alle 2 di pomeriggio, di un caldo pomeriggio di giugno. Ci sono 3 persone a farmi il colloquio. Uno di loro, vedendo che nel mio curriculum ci sono i titoli delle mie tesi di laurea italiane, mi chiede se sono capace di spiegargli la mia tesi triennale sull'equazione di Black and Scholes. Io, tutta convinta, gli dico che se mi dava una lavagna potevo farlo, al che una sorta di sfida mi fa cambiare stanza, andiamo in una conference room dove inizio a spiegargli alla lavagna il tutto e lui rimane senza parole. Insomma, massimo rispetto e anzi valorizzazione del candidato. Alla fine arriva la proposta di assunzione, Interest Rates Financial Analyst a Manhattan, 25 anni, mi sembrava un sogno, ricordi? Di cosa ti occupi adesso? Mi occupo del prezzaggio di tutti i prodotti finanziari e derivati che la banca ha sui tassi di interesse. Inoltre calcolo le riserve e il rischio che i traders hanno su queste diverse classi di titoli, per poi calcolare l'impatto che tutto ciò ha sul bilancio della banca. Domanda di rito, Caterina, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Come diceva qualche tempo fa un articolo del New York Times di Frank Bruni, Italy breaks your heart, l'Italia ti spezza il cuore. a pensare a tutto il potenziale che abbiamo e che non riusciamo, a sfruttare, che dissipiamo in questo modo. Ciò che mi sento di dire è che ora è il momento del take action, dello svegliarsi da questo ritardo e di rimettersi in carreggiata. Ciò stanno i giovani a rimboccarsi le maniche e vedere di che cosa veramente siamo in grado di fare. Ci raggiunge ora in linea Paolo Garonna, segretario generale della FEBAF, Federazione delle Banche, Assicurazioni e Finanza. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Professor Garonna, cosa ha pensato ascoltando la storia di Caterina? Ma è una ragazza straordinaria, è certamente un'eccellenza, ma come giustamente detto lei, non è un'eccezione. Ci sono tanti ragazzi come lei, c'è un potenziale enorme di giovani che possono conquistare il mondo. Professore, ci riassume brevemente cos'è FEBAF? FEBAF è la Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza. È una startup, è una federazione che vuole creare, sta creando una casa comune della finanza. In questa casa noi diamo uno spazio, diamo un posto importante anche a tutti i nostri giovani e anche meno giovani che fanno attività di risparmio, che fanno industria del risparmio all'estero, e quindi anche per questo guardiamo con grande interesse a quello che sta succedendo all'estero, ai nostri italiani che conquistano posizioni nel mondo finanziario internazionale. Questo lo avete tradotto anche in un progetto, infatti un aspetto molto interessante è questo attivismo che vi vede in prima linea nel coinvolgimento dei nostri giovani espatriati. Una prima tappa l'avete fatta nella City di Londra un anno fa, e ancora più interessanti sono i dati del questionario che avete diffuso tra i nostri giovani expats. Quale risposta l'hanno più sorpresa? Anzitutto il grande desiderio di restare in contatto con il proprio paese. In secondo luogo questo grande interesse a essere presenti, a valorizzare, diciamo, i contributi italiani nei luoghi in cui si trovano, mantenendo però il contatto con l'industria, con la madre patria, con l'industria nazionale. Professore, lei stesso ha lavorato per organizzazioni internazionali quali OCSE e ONU. L'allarma però a vedere che alla fin fine giovani altamente qualificati, stando al vostro sondaggio, scelgono l'estero per opportunità di carriera e meritocrazia ancora più che per i salari, e vedono il nostro paese come una nazione con poche opportunità di sviluppo, scarsamente innovativa e senza cultura del rischio. Questa è un po' la realtà che tutti conosciamo, però guardi, io credo che il fatto che loro vadano via dal paese in cerca di valorizzazione dei loro cervelli, dei loro talenti, non deve essere visto come un fatto negativo. Quello invece che è il problema è che noi non riusciamo a trarre cervelli nel nostro paese, siano essi italiani e siano essi di altri paesi. Caterina, è una domanda per il professor Garonna? Pensa che tutti questi talenti all'estero torneranno mai in Italia? Il vero problema è il paese, il problema è che il paese deve dare opportunità a tutti, agli italiani per far ritornare se così vogliono, ma noi dobbiamo attrarre cervelli da tutto il mondo. Ecco, io credo che questa dobbiamo fare come fanno gli altri, che ci sottraggono i cervelli, e quindi anche noi dobbiamo sottrarre cervelli agli altri. Lei pensi appunto quanto negli altri paesi si dia spazio agli italiani. Diamo noi spazio in Italia ai giovani degli altri paesi? Non credo, e questo è il nostro problema. Ne approfitto per ricordare che voi come FEBAF continuerete questa attività di riconnessione con i nostri giovani espatriati nel mondo della finanza, andrete anche negli Stati Uniti e il resto Europa nel Far East, però le chiedo anche, lei vede delle resistenze a un ritorno di questi, di questa classe dirigente potenziale che abbiamo all'estero? Perché alla fine è veramente quella che può in qualche modo aiutarci a riformare certi modelli sbagliati che abbiamo. Sono resistenze e chiusure, ecco, c'è sicuramente un mondo del lavoro che non è aperto, non in tutte le sue parti è aperto a questa cultura, diciamo, di guardare oltre frontiera, però io credo che se il paese si rimette in moto, le occasioni si ripresentano, i giovani sono pronti a rientrare e da questo punto di vista sono un grandissimo potenziale per noi, quindi guardare a loro, ecco, fare rete con loro, ecco, questo è il nostro obiettivo. Grazie a Paolo Garonna, segretario generale di FEBAF. E domanda diritto per Caterina Mariani invece, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Prima cosa da fare è diventare il coraggio che abbiamo dentro, se non si vede un'opportunità in Italia, spingersi oltre, anche oltreoceano, per catturare quello opportunità formative di lavoro che invece da qualche altra parte esistono. Mai mettersi in una posizione di stand-by, di un aspettiamo e vediamo, comunque sperare in tempi migliori. Noi giovani siamo potenziali capacità e dobbiamo andare incontro all'opportunità di petto. Ritorna anche quest'anno l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 19 aprile, sostituendo la rubrica Jobs Abroad. Premieremo 4 ascoltatori tra i 18 e i 30 anni che invieranno da adesso fino alla mezzanotte di oggi una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta. Il tema siete voi. Nel 2014 è partita la Garanzia Giovani Europea. In 140 caratteri elaborate la vostra Garanzia Giovani da proporre all'Europarlamento. Un breve progetto di proposta comunitaria che renda l'Europa un vero spazio spazio unico comune dove occasioni di formazione e lavoro siano garantite agli under 30 trasversalmente nei 28 paesi. Una direttiva da sottoporre alla prossima legislatura dell'Europarlamento. Inviateci le vostre proposte in 140 caratteri con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e pubblicatele su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione però, inviate le vostre proposte solo fino alla mezzanotte di oggi e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola Bruxelles, ripeto la parola Bruxelles. In premio 4 viaggi al Parlamento Europeo di Strasburgo a fine 2014. La casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. Siamo giunti ad Expat, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Si moltiplicano nel mondo le associazioni di espatriati nate per accogliere l'ondata montante della nuova emigrazione. Uno degli ultimi esempi è Italia Altrove, gruppo di emigrati che aiuta i nuovi italiani da poco approdati nell'anta tedesco del Nordrhein-Westfalia. Ce ne racconta la genesi Erika Bezzo, membro del consiglio direttivo di Italia Altrove a Düsseldorf. Italia Altrove è nata da in realtà un gruppo di donne che ha iniziato a riunirsi per condividere, diciamo, cultura italiana, leggere dei libri, eccetera. Ad un certo punto abbiamo iniziato a vedere che il nostro gruppo diventava sempre più ampio, quando ci siamo rese conto di essere una cinquantina con un'ondata, diciamo, sempre più ampia che arrivava dall'Italia, abbiamo deciso di fare le cose sul serio, quindi di formalizzare questa iniziativa, di creare l'associazione, perché ci siamo resi conto che non era più solamente un'esigenza di condivisione culturale, ma anche di essere punto di riferimento per i nuovi italiani. Chi sono questi nuovi arrivati a Düsseldorf? Cioè, sono dei profili molto diversi, abbiamo degli ingegneri, dei giovani medici, dei manager che vengono a lavorare nei settori più disparati dell'energia, della telefonia. Sono profili molto diversi. Qualificati però? Assolutamente qualificati, sì. Ed è un'ondata in qualche modo in crescita, secondo te? Assolutamente sì. Per me è la seconda volta che vivo in Germania. La prima volta ci ho vissuto 12 anni fa. C'erano sicuramente già degli italiani qui, ma che arrivavano per motivazioni diverse, fondamentalmente per motivazioni di cuore, diciamo. Quando sono ritornata qui 2 anni e mezzo fa, mi sono resa conto che era cambiata completamente l'ondata immigratoria. Cioè, arrivavano professionisti, giovani laureati, famiglie di italiani, di giovani coppie con bambini piccoli. Concretamente Italia Altrove come li aiuta? Noi concretamente in un primo momento possiamo dare un supporto informativo, quindi informazioni pratiche sui primi passi, sul come muoversi a Düsseldorf, quindi le prime pratiche burocratiche da fare. Non diamo delle consulenze specifiche, ma sappiamo indirizzare le persone verso gli uffici preposti o verso le persone più indicate a soddisfare quelle che sono le esigenze specifiche del momento. Oltre al fatto che è importante, e personalmente lo posso dire, arrivare in un luogo e trovare una rete di persone che parla la propria lingua e che, diciamo, è in grado di accogliere e di farle sentire a casa. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italia-altrove.com. Un motivo per restare o tornare. 1 milione di euro l'anno per consentire a laureati italiani di conseguire un master o un dottorato presso università o centri di ricerca di eccellenza internazionale, incoraggiandoli a tornare in patria dopo gli studi all'estero. È l'iniziativa lanciata dal gruppo Zegna. Il progetto Ermenegildo Zegna Founders Scholarship avrà una durata di 25 anni con un impegno complessivo di 25 milioni. Offrire una concreta, anche se parziale, alternativa alla cosiddetta fuga dei cervelli è parte integrante di quel sentirsi responsabili del futuro del nostro paese, ha dichiarato l'AD del gruppo Gildo Zegna. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Garanzia Giovani, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di marzo è: parte la garanzia giovani, meglio restare in Italia approfittando di finanziamenti europei mirati a creare occupazione nella penisola per le under 25, oppure conviene partire comunque per l'Europa alla ricerca di un futuro migliore? Quale strada prendere di fronte al bivio? Su cosa scommettete? Dite la vostra. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it.